sono qua in descrizione, a terra, sono a terra, a capici, sono a terra, sono un fianco destro, ma già per già sono pulato. Tenendo cucinetti destro, dici tutto come sono io. Pure tu la stessa già state mettendo la mia già si fa. Magari. Sono in piedi, nell'angolo, ho le braccia lungo i fianchi, i piedi paralleli. Piego leggermente le gambe, il piede destro scivola poco verso destra, le dita sfiorano il pavimento. Distendo il braccio destro in diagonale bassa avanti, piego leggermente il gomito, guardo per terra, davanti a me. Distendo le braccia avanti, parallele, appoggio le ginocchia a terra, distendo la gamba sinistra in diagonale dietro, il piede appoggia a terra, chiudo la mano destra a pugno, appoggio la mano a terra, davanti a me, il mignolo è disteso, appoggio il dorso della mano sinistra a terra, di fianco alla destra, guardo in alto a destra, mi alzo con i piedi un po' separati tra loro, le punte dei piedi guardano verso l'esterno, le ginocchia si piegano, sollevo il bacino a destra, inclino il busto in avanti, distendo il braccio sinistro dietro, orizzontale. Le braccia scendono lungo i fianchi abbandonati, il dorso delle mani appoggia sul pavimento. I piedi tornano paralleli, il piede destro compie un passo in avanti, il ginocchio sinistro si piega fino ad appoggiare a terra, il ginocchio destro si apre verso destra. Mi siedo sul pavimento, distendo le gambe avanti quasi unite, piego leggermente le gambe, i piedi appoggiano a terra. Il busto si inarca, il bacino si solleva a destra, il lato esterno della gamba destra sfiora il pavimento, la caviglia si piega, i polpastrelli del piede appoggiano sul pavimento. Il braccio sinistro si piega di fianco, il braccio destro si tende in alto, la mano si chiude a pugno, il braccio sinistro si tende verso l'alto, le dita della mano si aprono. Appoggio le mani e le ginocchia a terra, sono a quattro zampe. Il ginocchio sinistro si sposta in avanti, il busto scende in avanti, la fronte appoggia sul pavimento. Le braccia lungo i fianchi si piegano leggermente con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Guardo oltre i piedi. Le gambe si distendono avanti, incrociate, la destra sopra la sinistra. Le gambe si piegano, il dorso del piede sinistro appoggia sul pavimento. Il piede destro scivola più avanti del sinistro. Il piede sinistro compie un passo in avanti, la gamba si piega leggermente. Mi sdraio a terra in posizione supina, la testa si volta a destra. Il braccio sinistro si piega con il gomito verso l'alto a coprire la faccia, la mano vicino al collo. Le gambe si piegano e si separano, le caviglie e i piedi sono rilassati. La pianta del piede sinistro appoggia sul pavimento, la gamba destra si distende, le mani si incrociano sul petto. Le braccia si distendono in diagonale bassa avanti, il braccio destro si piega, la mano all'altezza del petto si chiude a pugno. Il braccio sinistro scende lungo il fianco, le gambe si distendono, il piede destro incrocia sul sinistro, la parte alta della schiena si solleva da terra, il busto si raddrizza, sono in posizione seduta, le ginocchia si piegano, la testa si volta a destra, il peso si sbilancia verso destra, le mani salgono verso l'alto, le braccia quasi distese, la destra più in alto della sinistra, il braccio destro si piega, il gomito appoggia a terra di fianco alla testa con la mano vicino alla spalla, mi alzo in piedi, indietreggio lentamente verso l'angolo opposto. A sinistra è sotto il corpo, la spalla destra è causata da terra, il braccio è stranicchiato dritto in avanti, il polso spezzato, il palmo verso il soffitto, la mano a sinistra è andando per lì, i gambi sono stranicchiati, il polso è appoggiato, il braccio a sinistra è stranicchiato sul pavimento, dritto a basso. Segue la linea della gamba destra. Sono terra sul fianco destro. I gambi sono piccaticati, piedi ne picco uguale. Il braccio sinistro è scenuto dritto a basso. Dritto i gambi sono piccaticati. Il piede sinistro è piccacchionato da destra. A punta del piede guarda verso la destra, guarda a basso. La gamba destra è scenuta in avanti, con le ginocchia verso sinistra. Il corpo che è girato a sinistra, il braccio a destra è chiccato per il covo attaccato al corpo. Il decito è scenuto per la punta verso destra, la mano all'altezza della spalla, il ginocchio sinistro è piccacchiato, il braccio destro è scenuto, la mano a destra è in terra verso il corpo. Il corpo è causato nel picco verso la destra, il corpo è diritto verso la sinistra, il braccio sinistro. dedo subito tagliando la mano in terra, vicino alla mano sinistra. Il braccio sinistro è stermecchiato in terra, da parte bassa. La gamba destra è chiccata e si appoggia sul palpo in terra. Il piede è a direzione del busto. A capo guarda verso la spalla destra. I braccio sono aperti, stermecchiati. Il piede sinistro è chiunato in destra. A capo guarda a sinistra, i braccio sono di green. A mano destra è a destra. I green sono appoggiati sul piede. Il pulso sinistro è appoggiato sul palpo destro. La gamba destra è stretta, il piede è interno, a punto di piede la destra, il piede sono picchiato, ma il braccio sinistro, la gamba sono stretta, a terra, su busto, la gamba sono stretta, è bruciata, dopo il piede destro, mi sono scalcagnato, il volto sinistro si è trovato sotto il corpo, sotto mezzo, destra è poco piegata, che i grigni, sei scordata, i grigni. Non sono scordato, a destra. I braccia sono rimasti tutti. I punti storti, a capo, a già guardato a sinistra, a persona, appoggiato sulla coscia destra. E allora sono torcigliati i baroni. Sono accolazzato in terra. Mi sono storcigliato su fucinocchio destro, in terra. Un uomo mi ha giacchiato sotto il mosco. Ha già zippato il fronte. Un questo. Mi sono chiato cuozzo in dritto. Un questo. I piedi mi sono scalcagnati, i ginocchi. Il volto sinistro si è trovato sotto il corpo, sotto me stesso. Destra è poco piegata. Che I grini. Sei scordata. I grini sono scordata. A destra. I braccia sono rimasti tutti. I punti storti. A capo, a già guardato a sinistra. A persona, appoggiato sulla coscia destra. E allora sono torcigliati i baroni. Sono accolazzato in terra. Mi sono storcigliato su fucinocchio destro in terra. Un uomo mi ha giacchiato sotto il mosco. Ha già zippato il fronte. Un questo. Mi sono chiato cuozzo in dritto. Un questo. I piedi. Mi sono scalcagnato. I ginocchi. Un uomo sinistro si è trovato sotto il corpo. Sotto me stesso. Destra è poco piegata. Che I grini. Sei scordata. I grini sono scordati. A destra, il braccio sono rimasto tutto, i punti storti, a capo, che già guardato a sinistra, a destra, guardato. ognuno la interpreta come crede, ognuno con il suo corpo, ognuno con il suo modo. Perché io odio questa cosa che io metto lì e dico, si fa così, quindi dovete mettervi così. Ognuno deve lavorare con la sua testa e con il suo corpo, quindi non correggiamo, lasciamo fare. Abbiamo detto il piede destro più avanti del sinistro, il braccio destro disteso di lato in orizzontale. Ok, in orizzontale. Sì, no, no, ma non fatelo. Fatelo voi. Cioè facciano solo loro, così vediamo. La mano chiusa a pugno con l'indice disteso. Braccio destro teso di al fianco, polso piegato, gambe piegate, mano a terra, braccio sinistro teso, ginocchio sinistro poco allungato verso l'alto, in alto quasi triangolare, verso destra più in alto. Sono quattro segni avanti, quasi orizzontali, a testa indietro, guardo in gambe aperte distese, polpa strellietta, con braccio destro legato fianco, mano morbida verso l'alto, a terra l'orecchio, bacino sulle braccio sinistro teso in diagonale avanti, palmo mano verso l'alto, destro a terra triangolare verso l'alto, mano vicino a quattro zampe, ginocchio destro un po' piegati aperti, mani